Cercherò di dare alcuni spunti di riflessione, soprattutto per chi non vive in Francia e quindi si è svegliato stamattina con questa marea nera che ha sommerso il paese transalpino. Cercando di rimanere un po' lucido, perché comunque per chi vive in Francia e comunque si aspettava, ci aspettavamo un po' quello che è successo, però è uno shock, nel senso che il livello di questa marea nera è molto, molto, molto più alto di quello che ci si aspettava. Moltissimi si aspettavano, certamente una grande maggioranza a favore dell'estrema destra, ma non che questa potesse governare da sola. Sostanzialmente ci si aspettava un paese bloccato in tre blocchi e che questo permettesse di sterilizzare o di impedire all'estrema destra di prendere veramente e totalmente il potere in Francia, mentre purtroppo è proprio quest'ultimo lo scenario che si preannuncia, cioè una Francia in cui tra l'estrema destra di Marine Le Pen e di Bardella e la destra repubblicana dissidente di Ciotti probabilmente si passerà sì al secondo turno, avranno la maggioranza assoluta e quindi potranno governare per i prossimi 3 anni. Come possiamo descrivere il risultato di queste elezioni francesi? Lo si può descrivere in un certo senso come la conferma di una tripartizione anche geografica che era presente già in precedenza, cercando ovviamente di tagliare le cose con l'accetta, però i centri città e le coste dove in genere si rifugiano i pensionati benestanti francesi sono in mano a Macron e alla destra repubblicana, le periferie delle grandi città sono conquistate dalla sinistra del Fronte Popolare e la provincia, cioè quella miriade di piccoli paesi, rurali, di città medio-piccole da 100, 120 mila, 200 mila abitanti, quelle sono invece cadute in mano all'estrema destra. Il voto di estrema destra si caratterizza un po' come il voto di questa Francia periferica abbandonata che rifiuta, rigetta le élite parigine che l'hanno appunto dimenticata. I temi su cui probabilmente il Front National, oggi l'Assemblea Nazionale, ha conquistato, è diventato il rappresentante di questa Francia dimenticata, sono probabilmente tre. Uno è dell'immigrazione, questo è un voto di rifiuto dell'immigrazione e soprattutto un rifiuto del condividere risorse che si credono scarse con immigrati che vengono da altre parti del mondo. La casa popolare deve andare al francese, le sociali devono andare al francese, la disoccupazione deve andare al francese, non a persone arrivate da chissà dove, chissà quando. E questo si intreccia con il secondo tema, che è quello della criminalità. In ogni città francese, purtroppo, se vogliamo usare questa immagine qui, anche nelle città piccole, anche al di fuori delle grandi città, ogni città ha una propria scampia, cioè una zona di non diritto in cui anche la polizia fatica a entrare e che, oltre a spaventare e a limitare la vita degli abitanti che vivono in queste scampie, in queste centinaia di scampie francesi, spaventa anche chi vive a fianco oppure vivendo in sicurezza, creando un alone di insicurezza che è diventato inaccettabile per molti francesi. Non poter portare il bambino nel giardinetto perché questo è occupato da spacciatori e criminali, interi palazzi di case popolari lasciati vuoti perché diventati luoghi di spaccio e non si riesce a cacciare queste persone qua. Le persone hanno votato Front National o Rassemblement National proprio per questo tema della criminalità. Infine c'è il grande tema del declassamento economico, c'è tutta una Francia appunto periferica in cui non solo non ci sono più servizi pubblici, il treno, l'autobus che arriva, una scuola, ma vengono a mancare anche quelli privati, non c'è un bar per vedere una partita e ci sono redditi di questo ceto medio basso, spesso produttivo, che vive in provincia, che ha un piccolo negozio, una piccolissima impresa, l'artigiano, che non riesce più ad arrivare a fine mese, si sente declassato rispetto alla propria condizione che aveva vissuto fino agli anni 80-90 e che arriva vuole indietro il proprio stile di vita e nessuno nel campo repubblicano l'ha fatto e questa volta hanno deciso in massa di votare per l'Assemblea Nazionale. Gli altri due temi che sono apparsi in queste elezioni sono uno, il risultato inaspettato del campo centrista di Macron. Ci si aspettava un risultato molto molto deludente, molto più di quello che è attualmente. Le proiezioni davano la metà del centinaio di seggi che probabilmente avranno ottenuto e questo probabilmente è dovuto al fatto che un programma probabilmente troppo radicale del Fronte Popolare ha spaventato una parte di elettorato, soprattutto pensionati francesi mediamente benestanti, che hanno preferito ridare il proprio sostegno a Macron piuttosto che tentare la carta del Fronte Popolare. E per il Fronte Popolare, purtroppo, nonostante i centinaia di deputati che verranno eletti, è un risultato abbastanza deludente, nel senso che non si è andati oltre al risultato della NUPES di 2 anni fa e si è andati molto sotto alle previsioni e alle aspettative dei militanti e bisognerà vedere cosa avviene nel secondo turno perché molti dei candidati del Fronte Popolare sono sia al secondo turno ma in posizione sfavorita, cioè cioè ha una distanza eccessiva dal primo, spesso appunto di estrema destra, che fa dire che probabilmente il candidato del Nuovo Fronte Popolare non verrà eletto. Questo nonostante le varie desistenze che entreranno in gioco, che sono molto diverse, molto più complicate di quello che sembra. Tanto per dire, Macron ha detto di sostenere il candidato repubblicano favorito rispetto al Front National quando ci sono dei triangolari, però ci sono state tutta una serie di differenziazioni dei suoi alleati e anche dei suoi ministri che dicono sì, sosteniamo il Fronte Popolare, ma solo in quei collegi in cui per esempio non c'è un candidato di Mélenchon, ma c'è un candidato comunista socialista verde. Questo già complica la situazione. Insomma, per il momento la situazione è ancora imprevedibile, bisognerà vedere cosa avverrà al secondo turno, ma il dato politico di queste elezioni è chiaramente totalmente negativo.